GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Via libera definitivo del Senato al ritorno delle province. La legge d'iniziativa del Consiglio regionale introduce gli enti di area vasta. L'omicidio di Gemona, nulla osta alla sepoltura del corpo. Secondo la perizia medico-legale e tossicologica, Stefano Veniere, morto per overdose di farmaci e soffocamento. Delinquenza giovanile in aumento, l'analisi di un esperto di diritto minorile, mentre nelle aule di scuola si fa lezione di giustizia. Il rilascio e il rinnovo dei passaporti all'ufficio postale, la rivoluzione parte dal Friuli, per ottenere il documento basteranno 2 settimane. Cresce l'incidenza dei tumori della pelle, ma le cure sono migliorate e anche il tasso di guarigione, i risultati di una ricerca coordinata dal CRO. Verso la giornata della memoria a Trieste incontro con Aida Tagliente che racconta l'opposizione della Rosa Bianca al nazismo. Atletica leggera, Paolo Camossi torna ad allenare Marcel Jacobs, intervista con il tecnico goriziano dopo la ripresa del premiatissimo sodalizio con il velocista. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettigi. In apertura, ritorno delle province. Poco fa nell'aula del Senato il definitivo via libera alla riforma dello statuto del Friuli Venezia Giulia. 110 voti favorevoli, 50 i contrari e 3 astensioni. Così l'aula del Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale, arrivato al quarto e ultimo passaggio parlamentare, che tra le principali novità ripristina appunto le province introducendo gli enti di area vasta. In base alle dichiarazioni di voto tra le opposizioni contrari, Movimento 5 Stelle e PD, favorevole AVS, mentre Italia Viva si è astenuta. La legge di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia modifica inoltre la disciplina del referendum confermativo sulla legge su forma di governo e sistema elettorale regionale e prevede un numero fisso di consiglieri regionali, cioè 49. La cronaca giudiziaria: a 6 mesi dall'omicidio di Gemona è stato dato questa mattina dalla procura di Udine nulla osta alla sepoltura del corpo. Non è ancora nota invece la data dei funerali. Intanto, dalla perizia medico-legale e tossicologica sui resti di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi dalla madre e dalla compagna di lui, emerge che il 35enne è morto per overdose di farmaci e soffocamento. Abbiamo sentito l'avvocato Alice Bevilacqua, che difende Lorena Venier, poco fa all'uscita del carcere del Coroneo. Avvocato, dall'esito dell'autopsia emerge che Alessandro Veniere è morto per overdose di farmaci e per soffocamento. Sì, c'è una concausa di eventi che portano alla morte di Alessandro Venier, che è tutto ciò che la signora Venier ha sempre confermato e confessato fin dall'inizio del rinvenimento del cadavere. Manca l'evidenza dello strangolamento, a quanto pare. Sì, manca l'evidenza dello strangolamento, ma quello che ci siamo sempre chiesti, che abbiamo chiesto anche oggi alla signora Venier e che in qualche modo pongo il quesito, è: ha sempre confessato tutto, ha detto di tutto e di più, portando all'utilizzo di termini che un domani in un giudizio ci costeranno caro, perché dovrebbe mentire? Noi non dubitiamo che la versione che la signora Veniere ha dato possa essere in qualche modo diversa da ciò che realmente è successo. Avvocato, lei ha appena incontrato Lorena, come sta la donna? Lorena è molto provata, giornate altalenanti, giornate in cui è più positiva, giornate in cui vede il buio totale. È una persona che merita un processo in cui emerge veramente tutta la sua sofferenza e il suo vissuto. Io mi sono segnata una frase: sono l'immagine sbiadita di ciò che ero, ed è una frase molto importante e ci permetterà un domani di ricostruire la vita di questa donna. Molto si sta facendo in carcere per lei? Molto si sta facendo in carcere, sicuramente c'è un'equipe che lavora in modo approfondito su di lei, che la sorveglia ovviamente, quindi siamo tranquilli che in questo momento, al di là di quelle che sono le fisiologiche fasi di down e momenti un po' più tranquilli, sia monitorata. La procura ha dato nulla osta per i funerali, a questo punto le disposizioni dovrebbe darle la mamma? Ma in verità la mamma in questo momento non può dare dal carcere disposizioni, sappiamo che la volontà di Alessandro era quello di essere cremato, ma ovviamente non abbiamo potere al riguardo. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di violenza giovanile. Per arginare il fenomeno sempre più in primo piano nella cronaca nera non bastano le misure repressive, bisogna ripensare il modello educativo a partire dalle famiglie e dalla scuola. L'analisi di un esperto di diritto minorile. L'8,2% delle denunce degli arresti nel 2024 erano minori di 18 anni. Secondo il Viminale, Udine è la seconda in Italia per incidenza di criminalità tra i giovanissimi. La regione registra un dato superiore alla media italiana del 5%, dal 5,9% a Gorizia e Pordenone al 7% a Trieste. I reati sono aumentati soprattutto dopo il decreto Caivano. L'avvocato Martino Benzoni, esperto di diritto giovanile. Anche la legislazione, quindi l'intento repressivo da parte del governo, ha aumentato anche quelle che sono le forme non solo di criminalizzazione delle condotte dei minori, ma soprattutto gli interventi giudiziali e quindi l'applicazione di misure cautelari. I furti e le rapine, reati più frequenti, poi quelli contro la persona e legati al consumo degli stupefacenti e la resistenza al pubblico ufficiale. Le statistiche ci riferiscono che gli stranieri commettono un terzo dei reati totali commessi dai minorenni in Italia, quindi non si può ritenere che siano la maggior parte delle persone che delinquono. Spesso i minori non sono consapevoli dei reati che compiono. Solo nel momento in cui il minore si confronta con il processo penale incomincia a comprendere quali sono le conseguenze, ma in precedenza molti si sentono impuniti e questo è il grosso problema. Qual è la lettura che diamo all'aumento della violenza giovanile? Anche il fenomeno delinquenziale minorile è espressione di quello che è un forte disagio da parte dei minori. Il Covid probabilmente ha esacerbato quello che poteva essere un fenomeno già in nuce in precedenza, però è evidente che la distanza anche nell'ambito scolastico ha portato un po' a manifestarsi diversamente di questi fenomeni. È evidente che forse c'è, come dire, una sorta di fallimento di quello che è il modello educativo a cui siamo stati abituati in precedenza, forse non c'è un'adesione a quelle che sono le esigenze reali dei minori, probabilmente c'è anche un substrato patologico o comunque un'incapacità di crescere da parte di questi minori che dovrebbe essere affrontata con gli strumenti educativi diversi, non semplicemente con delle misure repressive. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. E ora il rapporto dei giovani con la giustizia. La Camera Penale di Udine organizza una serie di iniziative per informare sul diritto e la procedura penale. Nelle classi si simula un processo e poi si assiste a un vero procedimento in tribunale. Il ruolo della giustizia nello sviluppo della consapevolezza dei giovani che compiono reati. La Camera Penale Friulana propone agli studenti dell'ultimo biennio delle scuole superiori un percorso finalizzato a spiegare ai ragazzi i principi posti dalla nostra Costituzione a fondamento delle garanzie assicurate all'indagato e all'imputato. Un progetto definito nell'ambito del protocollo tra l'Unione Camere Penali Italiane con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'avvocata Patrizia Bianco. La prima è una lezione frontale o comunque una conferenza in cui vengono esposti ai ragazzi quelli che sono i principi costituzionali in materia soprattutto del diritto penale e della procedura penale. La seconda iniziativa invece porta i ragazzi a diventare protagonisti, per cui nelle classi proponiamo un caso pratico reale, non effettivamente verificatosi ma verosimile, quindi una rapina a scuola, quindi qualcosa che proprio li coinvolge, e loro assumono le vesti della difesa, della pubblica accusa e dei giudici, nonché anche dei testimoni degli imputati. La terza attività che proponiamo è accompagnare i ragazzi in tribunale per assistere a una mattinata in udienza. Spesso l'intervento degli avvocati viene chiesto anche per i ragazzi più giovani di 14-15 anni, dove diventa fondamentale spiegare quali sono le responsabilità e le conseguenze dei reati commessi, ma anche qual è l'impatto sulla persona offesa o danneggiata nel caso di reati sul patrimonio. Ma i giovani sono consapevoli? No, in realtà no, e infatti questo è il motivo della richiesta di intervento, per cui sanno che cosa è giusto e sbagliato in astratto, ma non sanno in concreto poi il dolore che possono andare a creare all'altra persona o anche a loro stessi e anche appunto, come dicevo prima, a quelli che sono poi i loro percorsi professionali o scolastici. Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca, la squadra mobile di Trieste ha arrestato 10 persone sospettate di far parte di un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina. Gli arresti sono avvenuti a metà dicembre, al termine di un'indagine partita a gennaio 2025 dopo una rissa tra kosovari e albanesi in Campo San Giacomo per il controllo della piazza di spaccio. L'attività di indagine ha svelato un'organizzazione con a capo due fratelli di origine kosovara, attiva proprio a San Giacomo. I capi ricevevano ordini telefonici dai clienti e coordinavano corrieri reclutati dal Kosovo per le consegne, che erano centinaia ogni giorno. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati quasi 2 kg di cocaina, 16.000 euro in contanti e beni rubati usati come pagamento delle dosi. Sempre a Trieste un ventenne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish. Il giovane è sottoposto a un controllo in via Capodistria, aveva nascosto la droga nelle mutande. A casa del ventenne, durante la successiva perquisizione, i militari hanno trovato quasi 8.000 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. Il giovane è stato posto ai domiciliari. Brutto infortunio per un 56enne carnico caduto con la motoslitta sulle piste dello Zoncolan. L'incidente è accaduto ieri sera a una quota di circa 1450 metri. L'uomo è stato avvistato dal conducente di un Gatto delle Nevi intorno alle 20.30, disteso lungo la pista 2 del comprensorio. Aveva perso il controllo della motoslitta rompendo una rete di protezione. È stato raggiunto dai soccorritori, stabilizzato, trasportato a valle e da qui con l'elicottero portato all'ospedale di Udine per il ricovero. Gli sono stati diagnosticati un trauma cranico e politraumatico. I passaporti all'ufficio postale. Parte dalla provincia di Udine, in 131 comuni, la piccola rivoluzione che consentirà di ottenere il documento senza dover rivolgersi agli uffici della polizia. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Gemona. Addio fila in questura per ottenere o rinnovare il passaporto. Da oggi si può fare richiesta del documento con un appuntamento negli uffici postali di 131 comuni della ex provincia di Udine e presto il servizio sarà disponibile anche nel resto della regione. L'iniziativa rientra nel progetto Polis che punta a digitalizzare gli uffici postali dei comuni fino a 15.000 abitanti, avvicinando la pubblica amministrazione anche ai cittadini che vivono nelle zone più lontane dalle città capoluogo. Questa mattina nell'ufficio postale di Gemona la dimostrazione del procedimento. Il cittadino chiede l'appuntamento, si dota del contrassegno telematico di 73,50 euro acquistabile nelle rivendite di valori bollati come le tabaccherie, effettua un versamento postale da 42,70 euro anche con l'applicazione Pago PA e va all'appuntamento. Qui vengono raccolte 2 foto tessera, prese le impronte biometriche, verificate carta d'identità e codice fiscale. La richiesta telematica inserita dall'ufficio postale viene quindi inviata alla questura e il passaporto, una volta pronto, è inviato a domicilio. La questura, sgravata da parte del lavoro di raccolta, ha spiegato il questore di Udine De Lorenzo, sarà in grado di elaborare un 50% in più di documenti rispetto ai tempi attuali. L'ufficio passaporti della questura resta comunque disponibile, in particolare è l'unico che consente di ottenere il passaporto per le richieste urgenti legate a necessità di lavoro, di studio o sanitarie. Gemona, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. La sanità in Siel, la società informatica regionale, ha programmato per questa sera tra le 20 e le 22 la migrazione della base dati dalla piattaforma del fascicolo sanitario elettronico del Friuli Venezia Giulia su un nuovo ambiente tecnologico. Durante l'intervento i cittadini non potranno accedere al fascicolo sanitario elettronico, consultare documenti clinici, referti e informazioni sanitarie personali. Sarà inoltre sospeso il servizio di recupero delle ricette elettroniche in farmacia mediante presentazione della tessera sanitaria. Al termine della migrazione e fino a domani mattina verranno effettuate verifiche tecniche per assicurare il completo ripristino dei servizi e la corretta indicizzazione dei dati. In regione cresce l'incidenza dei tumori della pelle, ma le cure sono migliorate, così come il tasso di guarigione, lo dice una ricerca coordinata dal CRO di Aviano. Ascoltiamo. In Friuli Venezia Giulia si registrano ogni anno circa 600 diagnosi di melanoma cutaneo. Nella maggior parte dei casi vengono curati in tempi brevi attraverso l'asportazione chirurgica. E se in Italia l'incidenza è in crescita, al tempo stesso le cure sono diventate più efficaci e gli indicatori di guarigione a seconda dello stadio della malattia sono migliorati. Lo certifica una ricerca condotta dal CRO di Aviano insieme all'Istituto Romagnolo per lo studio dei tumori di medulla, che da anni collaborano anche grazie al supporto di AIRC. Luigino Dalmaso, direttore dell'epidemiologia oncologica al CRO di Aviano. Il risultato principale dello studio è che le persone che si ammalano con una è una fase precoce di malattia, che vuol dire uno spessore molto piccolo del tumore, hanno la stessa attesa di vita di chi non sia malato. Naturalmente devono tutte queste persone seguire tutte le indicazioni e la sorveglianza che i clinici raccomandano loro. In Italia in tutto sono 250.000 le persone con una diagnosi di melanoma e per la metà si tratta di una diagnosi di sopravvivenza di oltre 10 anni. Il 60% avvengono in fase precoce. Con l'aumento delle possibilità di guarigione va considerata allora anche una modifica dell'applicazione del diritto all'oblio oncologico. Chi ha ricevuto una diagnosi di questo tipo al momento deve continuare a dichiarare la sua condizione anche a fini assicurativi o bancari per almeno 10 anni. L'ipotesi, alla luce dei nuovi risultati delle possibilità di guarigione, è di ridurre i tempi e di conseguenza le discriminazioni. Lo studio ha mostrato che quando la diagnosi è in fase precoce, quindi con uno spessore molto piccolo, queste persone non hanno un eccesso di morte, quindi potenzialmente potrebbe essere recepito questo risultato e praticamente alla fine delle terapie non c'è più bisogno di dichiarare la malattia perché non sussiste un rischio di morire da malattia stessa. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12:45, siamo al tempo, cielo in prevalenza sereno sulla regione, nuvoloso a Trieste. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste e Gorizia 3 gradi, a Udine 3,5, a Pordenone 4, a Tarvisio meno 8, a Sappada meno 3, a Tolmezzo 1 grado, a Piancavallo 1 grado e mezzo, a Forni di Sopra 2, sul Montelussari meno 3 gradi e mezzo, sullo Zoncolan meno 1 grado, sulla costa a Lignano 3, a grado 4 gradi. Secondo l'ARPA oggi continueremo ad avere cielo in prevalenza sereno, sulla costa in serata sarà possibile un aumento della nuvolosità. In vista del 27 gennaio, giornata della memoria delle vittime delle deportazioni nazifasciste, oggi a Trieste, a cura della comunità ebraica e con il contributo del comune, verranno posate 20 nuove pietre d'inciampo per ricordare le vittime dei crimini fascisti e nazisti. La prima posa questa mattina in via delle Beccherie, dove una di fronte all'altra abitavano due famiglie ebraiche originarie di Corfù. Alla cerimonia hanno partecipato anche alcuni ragazzi del liceo classico linguistico Petrarca. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, altre pietre d'inciampo saranno collocate in viale 20 settembre, in via Tiziano e in via Molino a Vento. E proprio i ragazzi del liceo Petrarca nello scorso anno scolastico hanno realizzato un documentario intitolato Un silenzioso massacro, che esplora l'orrore del programma nazista di soppressione delle persone con disabilità. Il documentario, che propone numerose interviste ai familiari delle vittime, è stato realizzato con la collaborazione, tra gli altri, dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea. Un silenzioso massacro sarà proiettato questa sera alle 18:30 al cinema Ariston. Al liceo Carducci Dante, invece, questa mattina un incontro con l'attrice Aida Tagliente. Si tratta di un'introduzione allo spettacolo teatrale La Rosa Bianca. Un professore e cinque amici, tutti studenti universitari, uniti dall'indignazione per quello che il governo nazista stava facendo. In quella primavera del 1942 a Monaco è sbocciata così la Rosa Bianca, un movimento di resistenza politica non violenta contro il regime di Hitler e per i diritti di tutti. I ragazzi saranno ghigliottinati, ma la loro storia continuerà e se ne parla ancora oggi. La presentazione al liceo Carducci Dante di Trieste, alla quale hanno partecipato cinque classi, quinte e quarte, è stata veramente molto applaudita. Serve a preparare gli studenti allo spettacolo che si terrà al Teatro Miela il 3 febbraio alla mattina, durante il quale l'attrice Aida Tagliente, attrice friulana, parlerà proprio della La Rosa Bianca, uno spettacolo che lei stessa ha scritto e che porta in giro per l'Italia e anche all'estero da molti anni, dal 2019. A questo spettacolo teatrale è collegata anche una mostra che ritrae i volti dei sei componenti del nucleo principale della Rosa Bianca. Tutti gli studenti di ogni indirizzo di questo liceo sono invitati alla mostra sui ragazzi della Rosa Bianca, una mostra che dopo aver percorso centinaia di chilometri dal 2018 fa tappa qui a Trieste. E forse aprirà anche al pubblico. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dai porti romani alla cantieristica di Monfalcone, dalla Trieste multiculturale alle memorie delle due guerre mondiali a Gorizia, fino alla città della scienza e alla storia della regione autonoma. Sette tappe per raccontare 2000 anni di trasformazioni, frontiere e convivenze nell'area giuliana. Intorno a questi e altri temi si svilupperà porti, popolazioni, società in un'area di frontiera, il ciclo di seminari itineranti promosso dall'Università di Trieste, coordinato da Tullia Cattolica. Catalan attraverso il Dipartimento di Studi Umanistici, ciclo che si apre oggi al Museo Sartorio con l'incontro dal titolo Alla scoperta del mondo antico, i due porti romani e le popolazioni di Aquileia e Tergeste alle 16.30. Gli altri appuntamenti fino a metà aprile si svolgeranno anche a Ronchi, a Grado e a Gorizia, sempre con i confronti di storici ed esperti anche di altri atenei e associazioni. La pagina degli spettacoli al Trieste Film Festival questa mattina si è svolta la masterclass della regista Kirill Serebrennikov, che ieri sera al Rossetti aveva presentato il suo ultimo film, La scomparsa di Josef Mengele. Nel programma di oggi il primo dei lungometraggi in concorso, il lituano Il visitatore, alle 16, sempre al Rossetti. Al Cinema Ambasciatori parte invece la sezione dedicata ai documentari. Alle 14.30 il polacco Dicembre sull'arrivo in Europa di Viaggiatori non accolti e alle 16 l'anteprima italiana di Nessuno vi farà del male di Dino Hodžić, una ricostruzione del massacro di Srebrenica attraverso gli occhi di un sopravvissuto che all'epoca era bambino, il regista stesso. Tra gli altri spettacoli di oggi, al Teatro Nuovo di Udine, Venere nemica di e con Drusilla Foer, rilettura della favola di Apuleio, Amore psiche, tutt'altro genere a Spilimbergo. Al Teatro Miotto si apre il tour regionale di Andrea Pennacchi con il suo Alieni in Laguna. Lo sport, l'atletica leggera, Marcel Jacobs e Paolo Camossi di nuovo insieme. Il due volte campione olimpico, campione mondiale ed europeo, torna ad allenarsi con il tecnico goriziano. Il loro sodalizio aveva prodotto alcuni dei più clamorosi successi dell'atletica azzurra, ma si era interrotto nel 2023 quando Jacobs aveva scelto la via degli Stati Uniti. Abbiamo chiesto a Camossi come si è concretizzato questo riavvicinamento. A Tokyo, durante i mondiali, abbiamo avuto l'occasione di fare quattro chiacchiere, ma come uomo-uomo, non come allenatore e atleta. Quindi c'è stato questo ricontatto, abbiamo parlato, siamo stati bene insieme e poi da lì a questo rilavorare insieme. Sicuramente ci ha messo lo zampino anche il presidente, che ha saputo gestire al meglio la situazione. Vi siete solo sentiti o vi siete anche già visti? Avete stilato una tabella di marcia? La fortuna è che oggi la tecnologia ci offre qualsiasi possibilità, quindi è importantissimo vedersi, quello sicuramente, ma con video, diretta analisi si può già fare qualcosa anche se non ci si vede, quindi al momento stiamo a distanza, stiamo organizzando per fare sicuramente dei periodi insieme perché sono anche quelli importanti. E poi dopo, comunque, lui quando inizia la stagione agonistica si sposterà su in Italia. Qual è lo spirito che lei vede adesso in Marcel Jacobs e qual è appunto gli obiettivi della stagione che vi date? Lo spirito penso che sia buono, nel senso che Marcel è un atleta che tendenzialmente ha vinto tutto quello che c'era da vincere tranne il mondiale all'aperto, quindi è un atleta che volendo potrebbe anche dire: signori, è stato bello, vi saluto, ho dato tanto, le mie soddisfazioni. Invece si è preso un periodo di riflessione, un periodo in cui ha davvero pensato cosa vuole dal suo futuro e alla fine è arrivato alla conclusione che la pista è ancora il suo futuro, quindi vuole arrivare al 2028 step by step, sarà da recuperare un po' di lavoro e l'obiettivo principale non è il risultato in se stesso, non è la medaglia, non è il crono, ma il risultato principale è ridare la naturalezza di corsa a Marcel che l'ha sempre contraddistinto e gli ha permesso di ottenere quello che ha ottenuto. In chiusura segnaliamo alcuni incontri religiosi, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, questa sera a Gorizia la celebrazione congiunta della parola con la partecipazione dell'arcivescovo Redaelli a San Rocco alle 20.30. A Trieste si parla di riconciliazione e missioni in Africa in un incontro con padre Luigi Maccalli nella parrocchia Beata Vergine Addolorata di Piazzale Valmaura alle 18.30. Padre Maccalli nel 2018 fu rapito in Niger da militanti jihadisti e tenuto in ostaggio per 2 anni. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Daniele Lettig e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Walter Vidonis, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 12.53 minuti e 30 secondi, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.